giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Con Schengen sospeso, 1000 respingimenti, 39 passeri arrestati al Comitato per la Sicurezza di Gorizia, anche il ministro Piantedosi. Fermato il presunto violentatore di Pordenone, 15 giorni fa aveva abusato di una ventenne, stava per lasciare il paese. La lotta alla criminalità organizzata entra all'università grazie alla collaborazione tra Osservatorio Antimafia e Ateneo di Udine. Caravaggio, Bernini, Perugino, la grande arte a Illegio per la mostra di San Floriano dedicata al coraggio, e c'è anche Dargen D'Amico. Tra Aquileia e Grado, con un appuntamento in Slovenia, ha presentato il programma dei concerti in Basilica, declinato al femminile. Svolta udinese, dopo una stagione sofferta e una salvezza fortunosa, la società presenta il tecnico Runjic e i dirigenti Nani e Inler. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Apriamo questa edizione del giornale radio regionale con la visita del ministro dell'interno Piantedosi a Gorizia. Piantedosi ha preso parte questa mattina al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Ricciardi, per poi incontrare i suoi omologhi di Slovenia e Croazia. Gorizia, un focus sugli effetti del ripristino dei controlli di frontiera. A partire da ottobre, nella sola provincia di Gorizia, sono stati controllati più di 250.000 mezzi. Sono state arrestate 39 persone, in prevalenza passer, 100 persone sono state denunciate, più di 1.000 i respingimenti che non sarebbero stati possibili senza la sospensione del trattato di Schengen. Sono i dati riportati all'uscita dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Ministro degli Interni Piantedosi, dal Sindaco di Gorizia Ziberna, per il primo cittadino della città che ospiterà nel 2025 la capitale europea della cultura. È più che positivo il bilancio della sospensione di Schengen, che Ziberna si augura sia tuttavia ripristinato nel 2025. Per lo stesso periodo il sindaco ha avuto dal ministro la rassicurazione di un incremento degli organici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Poco fa è iniziato il quarto incontro trilaterale tra il ministro Piantedosi e i suoi omologhi sloveno e croato. Al centro, ancora una volta, i problemi legati alla rotta balcanica e alla sospensione del trattato di Schengen. Gorizia, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. Fermato l'autore dello stupro con rapina a Pordenone avvenuto nella notte dello scorso 9 giugno. Si tratta di un uomo di 29 anni, residente nel capoluogo d'Estria a Tagliamento, incensurato, descritto come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, incensurato, punto con vita normale, accompagnato con prole, un buon lavoro in un'azienda famosa, si preparava a scappare dall'Italia. È stato descritto dai carabinieri che l'hanno fermato, prima che potesse scappare all'estero, come un perfetto Dr. Jekyll e Mr. Hyde. I militari dell'arma si sono presentati in una nota azienda della provincia di Udine, dove il 29enne lavora come operaio, per portarlo in carcere. È un colombiano residente a Pordenone, incensurato, il presunto autore della violenza sessuale e rapina ai danni di una 18enne ucraina che stava tornando a casa dopo il turno di lavoro in un locale del centro, alle 2 di notte del 9 giugno. Tutto faceva pensare che stesse preparando la fuga, quest'uomo, grazie alla rete di contatti di cui disponeva. Aveva atteso che la ragazza uscisse da lavoro, l'aveva pedinata e mentre stava attraversando il ponte di Adamo ed Eva, l'ha trascinata in un'area erbosa poco distante, presa a pugni e abusato di lei. Per poi, hanno sottolineato i carabinieri del comando di Pordenone, che hanno svolto le indagini, riprendere la sua vita normale, accompagnato con prole, un buon lavoro in un'azienda famosa, un insospettabile. Non è da escludere che l'uomo avesse frequentato il locale dove lavorava la diciottenne anche con la famiglia. Fondamentali per l'indagine le telecamere pubbliche e private, ma anche la segnalazione di un militare non in servizio quel giorno, che ha riconosciuto il soggetto passeggiando per la città. La donna è stata rapinata dai 20 euro che teneva nel portafogli. Tutto fa pensare a un'azione premeditata. Ad emettere la misura la PM titolare del fascicolo, Federica Urban. Visto il presunto autore, è una dinamica di tipo episodica, ha sottolineato il tenente colonnello Vincenzo Nicoletti, comandante del reparto operativo, da non stigmatizzare nell'ambito di un contesto di pericolosità sociale. Tuttavia i militari stanno capendo se l'uomo abbia colpito ancora in passato, analizzando la rete di denunce da codice rosso in cerca di eventuali attinenze. Diverso il caso dell'altra indagine conclusa dai militari dell'arma, identificati e deferiti detenuti in stato di libertà due 29enni, protagonisti della rissa con accoltellamento, il giorno prima della violenza sessuale, in centro. Un regolamento di conti per il controllo delle piazze di spaccio tra un afghano residente a Udine e uno a Pordenone. Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono proseguite anche durante la notte le ricerche di vigili del fuoco e soccorso alpino di Trieste di una donna di 69 anni scomparsa da ieri pomeriggio lungo la strada tra Sales e Precenicco. Da questa mattina alle 7 le ricerche sono riprese in zona Impervia con tecnici soccorritori anche di altre stazioni del Friuli Venezia Giulia. Sono stati attivati anche gli speleologi e le unità cinofile, sul posto anche le elicottero dei vigili del fuoco, e la protezione civile continua a cercare anche Bruno Makarovic, l'anziano di Borgo San Sergio, sparito ormai da 6 giorni. L'uomo si era allontanato dalla casa di riposo Santa Barbara. Le squadre di ricerca hanno impegnato anche unità cinofile nel tentativo di trovare sue tracce. Un accordo tra Università di Udine e l'Osservatorio regionale antimafia porterà i temi del contrasto alla criminalità organizzata nelle aule degli studenti, non solo con lezioni e convegni, ma anche in modo pratico. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Osservatorio, Enrico Sbriglia. Credo che sia la prima in assoluto in Italia come capacità di accordarsi tra due enti. L'università per un verso è l'Osservatorio regionale antimafia, o meglio il Consiglio regionale, dove entrambi i soggetti si impegnano a realizzare tutta una serie di iniziative che sono finalizzate a non solo a coltivare quella che dovrebbe essere una cultura della legalità, perché questo un po' appartiene a tutti i soggetti istituzionali, ma soprattutto a trasformare quelle che sono delle attività di ricerca, di analisi, l'esame di dati e altro, in qualche cosa che abbia anche una propria concretezza, quindi non limitarsi a fare, tra virgolette, buona accademia, ecco, ma tradurre l'insieme di informazioni che si riescono a rielaborare come anche possibili suggerimenti da fornirsi e da dare a quanti svolgano attività istituzionali nel contrasto alle criminalità organizzate. Doppia seduta questa settimana per il Consiglio regionale, domani la votazione della discussa legge sul fine vita, oggi l'Aula si è invece occupata di nomine. Sono Maria Masaudan, studiosa ed ex direttrice del Museo Revoltella di Trieste, e Renato Carlantoni, ex sindaco di Tarvisio e consigliere regionale, i due membri eletti dall'Aula di Piazza Oberdan a far parte del Corecom. La votazione nella seduta di stamattina, in gran parte, è dedicata alle nomine di competenza dell'Assemblea in una serie di organismi pubblici. Masaudan era stata proposta dall'opposizione e Carlantoni dalla maggioranza, con una sola preferenza a disposizione di ciascun votante, in modo da garantire equa rappresentanza all'interno di questo organo del Consiglio che svolge compiti di consulenza, garanzia e vigilanza nel settore delle telecomunicazioni. Dall'Aula anche il via libera alla conferma di Arrigo De Paoli come difensore civico regionale. L'ex magistrato di Cassazione e procuratore per i minori ha ricoperto lo stesso incarico nell'ultimo quinquennio ed era l'unico candidato. Ha ricevuto 42 voti con 2 schede bianche. Tra i suoi compiti, intervenire a tutela di cittadini, associazioni e gruppi che lamentino ritardi, irregolarità, anomalie e disfunzioni nel lavoro della pubblica amministrazione. Tra le nomine votate oggi dal Consiglio, anche quella di 7 dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni elettorali circondariali, votazioni cui non hanno partecipato gli esponenti di minoranza, contestando la gestione di questa problematica da parte del centrodestra. L'Aula ha anche eletto 5 componenti dell'Osservatorio regionale antimafia. In apertura di seduta, l'Assemblea ha poi approvato il rendiconto del Consiglio regionale, in sostanza il bilancio economico delle spese per la propria gestione. All'ordine del giorno anche l'approvazione della risoluzione consiliare che chiude la cosiddetta sessione europea, il documento che è in sostanza il contributo della nostra regione alla legislazione comunitaria e che verrà inviato a Bruxelles, è condiviso in modo bipartisan da maggioranza e opposizione. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Riparte Mare Sicuro con i consueti consigli a bagnanti, sub e diportisti, 2 mezzi in più operativi a grado. Sentiamo. Con l'estate che si appresta ufficialmente a iniziare, ritorna anche quest'anno l'ormai consueta operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera, che per tutta la stagione prevede il rafforzamento dei controlli lungo tutti i 93 km di mare del Friuli Venezia Giulia. Saranno oltre 80 gli uomini e donne della Capitaneria di Porto coinvolti a terra e in acqua, mentre dal punto di vista dei mezzi saranno rafforzati in particolare quelli dispiegati a Grado. Ben due in più, un'imbarcazione e una moto d'acqua, di cui, ha spiegato il direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, Luciano del Prete, è appena stato autorizzato l'acquisto. Sempre a Grado, una disposizione particolare riguarderà il divieto di balneazione nei pressi della diga di Levante o del Nautofono, vicina al canale navigabile e caratterizzata da forti correnti. Al centro del lavoro della Guardia Costiera, ha continuato del Prete, è la tutela delle persone, bagnanti, sub e diportisti, a cui il personale della Capitaneria ha fornito pochi ma essenziali consigli. Controllare lo stato di salute di imbarcazioni e attrezzature, rispettare le norme della navigazione e non avvicinarsi troppo alla costa, controllare i bollettini meteo e le ordinanze e avvertire qualcuno dell'itinerario che si intende percorrere. Grado, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Torna navigabile la conca di Bevazzana di Bibione, interessata per circa due anni da lavori di manutenzione e di adeguamento per la sicurezza idraulica in territorio del comune di San Michele al Tagliamento. La litoranea veneta è dunque di nuovo navigabile nel tratto a confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. I diportisti dei porti turistici di Lignano e della laguna di Marano e Grado potranno quindi nuovamente navigare verso la laguna di Caorle e Venezia attraverso la litoranea veneta, ha chiarito il presidente del Consorzio Marine Lignano Giorgio Ardito, aggiungendo che si tratta di un collegamento fondamentale non solo per le darsene di Lignano e del suo comprensorio, ma per tutte le realtà diportistiche della regione. Con il Genio Civile di Venezia è stato realizzato un sistema di difesa con panconi a rendere più complessi i lavori. Le forzate interruzioni legate a motivi meteorologici e al rinvenimento di residuati bellici da bonificare. È stata una ricostruzione che ha fatto del Friuli un modello per tutto il mondo, quella del post terremoto, ma le tecniche antisismiche dell'ultimo mezzo secolo si sono evolute. Chi abita in edifici ricostruiti tra la fine degli anni 70 e gli anni 90 può ritenersi ancora sicuro? 48 anni sono passati dall'ultimo risveglio dell'Orcolat, quel mostro che il folklore friulano identifica come origine e causa dei terremoti. Dal 76 il territorio si è rialzato più forte e orgoglioso di prima, con una ricostruzione di borghi e città come erano e dove erano, che è stata modello per il mondo. Ma dopo tutto questo tempo le tecniche antisismiche sono cambiate e si sono aggiornate. Ciò che è stato costruito da allora è ancora sicuro? Risponde Natalino Gattesco, vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Udine e professore di tecnica delle costruzioni all'Università di Trieste. A partire dal terremoto del Molise, 31 ottobre 2002, la classificazione sismica del territorio nazionale è stata aggiornata, anzi è stata estesa a tutto il territorio nazionale. E accanto a questo nuovo aggiornamento è stata apportata una modifica importante alla normativa tecnica su come progettare in zona sismica. Le costruzioni progettate dopo, quindi negli ultimi 20 anni, sono costruzioni che hanno un livello di prestazioni in caso di eccitazione sismica importante, buono, ecco. E per quanto riguarda quello che era stato costruito prima del 2002, in particolare gli edifici storici e antichi? Sull'esistente sono stati fatti molti interventi, anche sull'esistente ovviamente sì, è stata adottata questa normativa. E quindi dove è stato fatto l'intervento sicuramente la sicurezza è buona. Il consiglio dell'esperto, soprattutto per gli edifici costruiti nel post-terremoto e fino a tutti gli anni 90, è comunque quello di procedere a delle verifiche in via precauzionale. Tutti gli interventi che hanno 50 anni meritano di essere verificati. Difatti la nuova normativa che ormai ha 20 anni, da 20 anni a questa parte, obbliga il progettista a redigere un piano di manutenzione delle strutture in modo che vengano controllate costantemente. Sicuramente è necessario un controllo. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora il meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Alle 11 a Trieste ci saranno 24,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi. A Gorizia 27,5 gradi, a Udine e Pordenone 26, a Tolmezzo 24 gradi, a Tarvisio e Forni di Sopra 22, a Sappada 19,5 gradi, sul Piancavallo 17 gradi, sul Monte Lussari 16, sullo Zoncolan 15, sulla costa a Lignano 27 gradi, a Grado 25, temperatura del mare 24 gradi in entrambe le località. E queste invece le previsioni per oggi pomeriggio: su pianure e costa cielo sereno, sui monti cielo poco nuvoloso per la formazione di locale nuvolosità, venti a regime di brezza, temperature in aumento. Per domani e per giovedì cielo sereno, caldo afoso in pianura di pomeriggio, venti di brezza, zero termico oltre i 4500 metri e temperature eccezionalmente alte oltre i 2000 metri di quota. Opere d'arte senza tempo per riflettere sul tema del coraggio e la mostra di Legio che sarà inaugurata oggi alle 18 tra gli autori Caravaggio, Bernini, il Perugino e tanti altri. Alla presentazione parlerà anche il cantante Dargen D'Amico, forse un contrasto coraggioso ma che, ci ha assicurato il curatore Don Alessio Geretti, non è fuori contesto. Prima di tutto colpisce molto la qualità altissima di tutte le opere, tra le quali si annoverano firme come Perugino, Tiziano, Raffaello, Caravaggio, Bernini, Guercino, Mattia Preti, fino ad arrivare a Kandinsky, Arnaldo Pomodoro, quindi con un viaggio che parte dal Medioevo e dal Primo Rinascimento e giunge fino all'inoltrato Novecento. Una occasione di meditazione sulla virtù del coraggio, ma anche un incontro con grandi capolavori. La presa di Cristo di Caravaggio, un'opera di grandi dimensioni e tra le più drammatiche e impressionanti, emozionanti che Michelangelo Merisi abbia dipinto, è uno spettacolo per gli occhi ed è anche un'opera che da poco è riaffiorata alla luce perché ha avuto una complessa vicenda. È in mano privata, è stata recentemente reindividuata e riproposta dagli studiosi e noi siamo il terzo soggetto al mondo che la può esporre. Perugino col suo San Sebastiano è un inno alla bellezza perfetta più che la raffigurazione di un martire. Bernini si manifesta pittore geniale e barocco, anche se noi lo conosciamo più come scultore. Nella vostra mostra c'è anche Dargen D'Amico. Come mai c'è anche Dargen D'Amico? Senz'altro è un accostamento insolito, forse spiazzante, ma un uomo che si dedica all'arte, che si dedica alla musica, alla poesia, perché prima ancora di essere un cantautore è uno che scrive dei testi in fondo di poesia. E che lo fa non per intrattenere esteticamente alcuni ammiratori, ma per scuotere delle coscienze. Beh, non è così fuori posto in una occasione in cui si riflette sul coraggio. Ritornano anche quest'anno i concerti in Basilica ad Aquileia, iniziativa che si aprirà il 29 giugno per concludersi il 21 settembre. Il programma è stato presentato nel Palazzo della Regione a Udine. La rassegna, ci ha spiegato il direttore artistico Pierpaolo Grattone, sarà incentrata sulle donne. Sentiamo. Il filo rosso che raggruppa i 9 concerti previsti sotto il cartellone, diciamo, dei concerti in Basilica ad Aquileia è la figura femminile. Donne sia come protagoniste, come compositrici e donne intese anche come, diciamo, autrici. A partire dal concerto di apertura il 29 di giugno con protagonista il puro coro romano Eos, tutto appunto al femminile. Le location di questo festival sono come sempre la Basilica Patriarcale di Aquileia e la Basilica di Santa Eufemia di Grado e anche quest'anno, diciamo, il santuario di Svetagora e alle porte di Gorizia, in occasione appunto in previsione di Gorizia 2025. I concerti sono organizzati dalla Società per la Conservazione della Basilica d'Aquileia, ovviamente in collaborazione con il Coro Polifonico di Ruda. In luglio avremo protagoniste 2 organiste, perché appunto intendiamo valorizzare con questo festival anche i 2 strumenti Kaufmann e l'organo storico Zanin che si trovano appunto nella Basilica di Aquileia. E sarà Wilieke Smith, una organista tedesca, cui seguirà un'organista olandese, vincitrice di numerosi premi, Vibeke Asner, che suonerà appunto, come dicevo prima, tanto ad Aquileia quanto a Svetagora. Perché avete scelto le donne? Perché la cronaca, diciamo, di questi anni, di questi mesi, in Italia soprattutto, porta in evidenza questi femminicidi terribili che vengono commessi a nord, a sud e al centro, e quindi abbiamo voluto valorizzare le figure femminili per anche sensibilizzare tutte le persone amanti della musica e non dello straordinario ruolo che invece le donne hanno, in questo caso anche, diciamo, in campo musicale. Quattro produzioni per quattro protagonisti in otto località della regione, la rassegna itinerante La vita e l'arte dell'incontro, con cui continua la festa per i 30 anni del Festival Dedica, un percorso a tappe con cui gli spettatori potranno riscoprire gli autori studiati dalla rassegna come Gioconda Belli, Hisham Matar, Paolo Rumiz e Melisse de Coequerangal. Si comincia stasera a Bagnaria Ars alle 21 nel complesso rurale Lascito d'Aldane, con un mare di suoni dove il Carpos Trio esplorerà le sonorità del Mediterraneo. Ne abbiamo parlato con il curatore Andrea Visentin. È un gioco di memoria, no? Nel senso che comunque vengono riproposti degli spettacoli, chiaramente verranno modificati per non essere identici all'originale, e proprio nella scia dei festeggiamenti dei 30 anni di Dedica. Quali sono secondo lei gli spettacoli più interessanti da vedere? Uno spettacolo che colpisce il cuore, a mio avviso, è sicuramente Bastian Contrari con Angelo Floramo, Nicoletto Oscuro e Matteo Sgobino, in quanto è un omaggio a Claudia Grimaz, che appunto nell'edizione passata con Gioconda Belli aveva interpretato insieme a Angelo Floramo questo spettacolo che si chiama Bastian Contrari, per cui abbiamo deciso, proprio per rendere omaggio a Claudia, che è stata una carissima amica, di riproporre questo spettacolo chiamando in scena anche Nicoletto Oscuro, che era una sua grande amica, e Matteo Sgobino. 30 anni di Dedica, cos'è cambiato in tutto questo tempo? Quello che non è cambiato, lo spirito sicuramente, è quello che viene fatto sempre con grande passione, con grande armonia e con grande amore. Nel corso di tutti questi anni è cambiato un po' come il mondo che cambia, no? Magari adesso ci ritroviamo con degli autori che hanno uno sguardo verso questo nuovo millennio, anche se, devo dire la verità, Dedica comunque è una manifestazione che è sempre legata al Novecento, che è il secolo della grande letteratura, sicuramente. Raddoppia il Festival Internazionale a Veninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, la manifestazione appena presentata. Si terrà il 22-23 giugno, il 19-20 luglio, sempre con inizio alle 21 a Borgo San Mauro Sistiana, nell'area sportiva di fronte alla chiesa, nell'ambito di Come Sere d'Estate del comune di Duino Aurisina, che sostiene e ospita l'iniziativa. E poi ancora dal 1 al 4 agosto nel giardino del Museo Sartorio, nell'ambito di Trieste Estate. L'associazione L'Armonia da 29 anni presenta al pubblico triestino i migliori spettacoli prodotti dalle compagnie teatrali amatoriali del Triveneto e dell'Istria. Il festival è dedicato ad Aveninchi, che aveva scelto Trieste come dimora dopo il ritiro dalle scene e che era stata presidente onoraria dell'Armonia sin dal 1989. Al Blue Energy Stadium, nello Stadio Friuli, è ancora in corso una intensa mattinata di presentazioni per i nuovi assetti della dirigenza della squadra bianconera, a partire dal Group Technical Director Gianluca Nani. Di base a Londra, svolge lo stesso ruolo anche per il Watford. Quando fai mercato per due club viene anche facile creare una sinergia, così la doppia gestione è davvero una grande opportunità, un vantaggio sia per l'Udinese che per il Watford, così ha detto Nani, che ha parlato anche di Toven, rimarrà con noi. Verrà ceduto solo in caso di offerta irrinunciabile. Deulofeu lo stiamo aspettando per Pereira, c'è da parlare sia con il mister che con il ragazzo. Non riscattiamo Lucca per venderlo, ha concluso. Logicamente però ci si siede se dovesse arrivare un grande club e si parla. Dall'ex centrocampista bianconero Inler, neo direttore dell'area tecnica, un saluto in friulano e un ringraziamento ai Pozzo. Non è da ieri che stiamo parlando del mio ruolo, ha detto lo svizzero. davvero sono pronto per mostrare ai ragazzi cosa devono fare per uscire da questa situazione. Chi non si allena e non dà sempre il 100% non merita di giocare. Infine il più atteso, il nuovo mister Costa Runjic, tedesco di origine croata, nato in Austria, le ultime panchine in Polonia, Stettino e a Varsavia. È la mia prima esperienza in Italia, ma non la prima di lavoro all'estero, ha detto Runjic. Spero di poter iniziare un viaggio che porti al successo. Il mio obiettivo, ha concluso, è quello di avere uno stile di gioco riconoscibile e voglio che la mia squadra sia aggressiva. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Caterina Cabrelli e Viola Romanese, in segreteria Valentina Veneruso, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.